TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Solo medico del servizio di continuità assistenziale per un bacino potenziale di 160.000 cittadini. È successo a Udine nel primo giorno dell'anno, la denuncia dei sindacati. Le case di comunità sottraggono risorse a servizi che lasciano scoperti utenti fragili. Un'interrogazione delle opposizioni in consiglio regionale. Condizioni stabili per il giovane che a Sedegliano ha avuto amputate le dita della mano destra dallo scoppio di un petardo e ricoverato in pediatria a Pordenone, nostra intervista con il primario. Grave infortunio con lo slittino a Zappada. Dopo l'episodio di ieri, protagonista una bambina di 7 anni, il nostro servizio sulla sicurezza nell'area di Nevelandia. Domani l'avvio dei saldi in regione, opportunità per commercianti e acquirenti, ma bisogna saper scegliere con attenzione. Verso l'Epifania con cielo più sereno, ma temperatura in discesa, le previsioni per i prossimi giorni secondo l'ARPA. Sono le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Daniele Lettig. In apertura, le difficoltà della guardia medica a Udine, le assenze dei medici di famiglia nei giorni festivi e la crescita dei casi di influenza stagionale stanno mettendo in crisi il sistema. Ieri il servizio non ha potuto essere attivato. Non c'era disponibilità dei medici e così il servizio della continuità assistenziale a Udine, l'ex guardia medica, non è stato attivo il primo dell'anno. Per sopperire alla mancanza, il riferimento è stato a Scavalco, il medico della sede di Feletto Umberto a Tavagnacco, uno solo per coprire 160.000 abitanti. Una situazione complicata in cui, ha precisato il direttore generale dell'azienda sanitaria Denis Caporale, si è fatto il possibile per garantire comunque il servizio. I medici impiegati nell'ex guardia medica, spiega, sono liberi professionisti e per loro non c'è obbligo di orario di turnazione. In ogni caso, per chi avesse avuto problemi di salute in quella giornata, era disponibile il servizio della casa di comunità in via San Valentino, il medico di Feletto Umberto e, nei casi più gravi, il pronto soccorso dell'ospedale. Meno convinto appare Stefano Vignando, capo del sindacato medico SNAMI. Per lui la situazione di precarietà della continuità assistenziale a Udine avrebbe dovuto essere già nota a inizio mese, al momento dell'organizzazione delle presenze. In ogni caso, la soluzione, a suo avviso, andrebbe cercata nell'istituto della reperibilità, che coinvolgerebbe la platea dei medici di medicina generale per aumentare le possibilità di adesione. E per quanto riguarda le assenze nei laboratori di assistenza primaria, sono annunciate chiusure oggi e il 5 gennaio a Cervignano, Santa Maria la Longa, San Giorgio di Nogaro, Palmanova Ialmicco, Gonarse e Marano Lagunare. Si dovrebbe ricorrere ai medici in formazione del CEFORMED, il corso triennale che abilita per l'attività, come avviene già in Assugi e in ASFO. Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Polemica politica invece dopo l'apertura delle prime case di comunità. Secondo le opposizioni in consiglio regionale ci sono state sospensioni di servizi che hanno lasciato senza assistenza utenti fragili. Le case di comunità sottraggono risorse alle microaree triestine? A chiederselo i consiglieri regionali di opposizione riuniti oggi in conferenza stampa in consiglio regionale in piazza Oberdan. Gli stessi che 15 giorni fa hanno presentato alla giunta un'interrogazione sulle ripetute non comunicate sospensioni del servizio di stimolazione neurocognitiva per persone con demenza e che hanno lasciato utenti fragili senza assistenza. Coinvolte le microaree di Civitavecchia e di Campi Elisi, ma di servizi simili si sarebbero verificati anche a Melara e Altura. Il vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Russo. Noi vorremmo che le case di comunità funzionassero come servizi di prossimità ulteriori ai cittadini che ne hanno bisogno, quelli più fragili. Non vorremmo però, come è successo, che qualcuno si presenti agli sportelli di strutture che funzionano come microaree e li trovino chiusi perché il personale è stato fatto dirottare come il gioco delle tre carte. Non è chiaro chi sia responsabile per questa sospensione e se il servizio verrà ripristinato. La consigliera regionale Giulia Massolino. Purtroppo sia l'emendamento che l'ordine del giorno sono stati bocciati e questo ci sembra un segnale particolarmente grave della non volontà di continuare a far funzionare questi strumenti fondamentali e far sì che le case di comunità siano uno strumento complementare e non sostitutivo dei presidi sociosanitari che sono estremamente preziosi per la cittadinanza, tanto più nel caso appunto di fragilità come nel caso delle persone affette da demenza o Alzheimer, che trovano in questi presidi la possibilità di ritardare un'istituzionalizzazione e al contempo di dare un sollievo alle famiglie. Presenti anche i consiglieri comunali Kevin Nicolini e Luca Salvati, che hanno richiesto l'audizione in consiglio comunale del direttore generale di Assugi Poggiana e dell'assessore Riccardi. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora parliamo dell'esplosione di Sedegliano, dove un petardo ha provocato gravi lesioni a un giovane che lo maneggiava. Il ragazzo, un sedicenne, ha avuto amputate le dita della mano destra. L'incidente pare anche compromettere le sue speranze sportive, da promessa del ciclismo qual è. Il giovane è ricoverato in pediatria all'ospedale di Pordenone, le sue condizioni sono stabili, ma le conseguenze dello scoppio gravissime. Abbiamo sentito il primario di pediatria, Roberto Dell'Amico. Le condizioni del ragazzo sono abbastanza stabili. In questa fase la priorità è il controllo del dolore, seguito con i reparti di anestesia e rianimazione. Il ragazzo è stato operato da Pierluigi Merlo della chirurgia della mano. Viene medicato regolarmente, le condizioni in questo momento sono quelle attese, una ferita che dovrà lentamente guarire. Sulle condizioni ci ha aggiornato il primario di pediatria, Roberto Dell'Amico. Come reagiscono i pazienti in età pediatrica, anche in un'età più strutturata, diciamo adolescenziale, questo genere di ferite? I ragazzini sono mediamente sorprendenti, hanno delle capacità di ripresa che spesso l'adulto non riesce ad avere. L'esperienza di chi fa il mio mestiere nella gran parte dei casi è questa. Ovviamente sono ragazzi che devono essere sostenuti, per cui non basta il chirurgo della mano, non basta il pediatra che ti visita tutti i giorni, il collega dell'anestesia che mette la terapia giusta per il controllo del dolore, ma serve anche un'equipe di psicologi che sia attrezzata per poter seguire questi grossi problemi. Ecco, per cui dalla settimana prossima rientreranno in reparto gli psicologi che abbiamo e assieme a loro affronteremo anche questo problema, e poi rimarrà la parte di, ovviamente, di riabilitazione. Quanto tempo di prognosi in questi casi per arrivare a una vita, diciamo, più agevole? Ma è difficile dirlo, dipenderà un po' da lui, dalla sua capacità di tirar fuori le risorse che ha. Lui viene dal mondo dello sport, usualmente gli sportivi hanno una capacità maggiore di riprendersi. Pordenone, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Spostiamoci in montagna a Sappada, dove ieri una bambina di 7 anni è rimasta coinvolta in un brutto incidente con lo slittino. È accaduto negli spazi di Nevelandia. Una nuova gestione privata che succede ma collabora con Promoturismo. Nevelandia a Sappada è per tanti bambini e non solo il battesimo sulla neve. Un parco giochi con tappeti, gonfiabili, quad e una pista larga e battuta per bob e slittini. Si accede rigorosamente con il casco e i percorsi sono delimitati da reti per evitare impatti con i pedoni. Eppure ieri, al quarto giorno di apertura stagionale, una bambina di 7 anni è stata coinvolta in un incidente abbastanza serio, finendo oltre le reti. È stata portata in codice giallo all'ospedale di Udine con l'elicottero. Per fortuna sta meglio e sarà dimessa già in giornata. La nuova gestione, che si rammarica per l'accaduto, invita alla prudenza e vuole mettere la sicurezza al primo posto. Marco Raggi, gestore Nevelandia. Noi cerchiamo di stare attenti, come spieghiamo, il genitore deve essere in grado di capire se il figlio può andare da solo o meno. Laddove il genitore ritenga che il figlio non sia idoneo a scendere col bob da solo, il genitore non paga e lo accompagna gratuitamente, affinché proprio che la sicurezza sia sempre al primo posto, prima del business. Sappada, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. La Valle d'Aosta ha aperto oggi la stagione dei saldi invernali, domani toccherà a tutte le altre regioni, con l'eccezione dell'Alto Adige, con le attese vendite a prezzo ribassato. In Friuli Venezia Giulia dureranno fino al 31 marzo. Le organizzazioni dei commercianti e le associazioni dei consumatori propongono una lista di consigli per orientarsi negli acquisti, dalla verifica dell'integrità della merce in vendita alle richieste di possibilità di recesso nei negozi fisici. Bisogna diffidare degli sconti troppo elevati e in ogni caso è meglio effettuare pagamenti tracciabili e conservare scontrini e fatture utili in caso di reso. Dopo un autunno segnato da qualche difficoltà, spiega Alessandro Tollon, presidente provinciale di Confcommercio Federmoda Udine, a ridosso del Natale, nei giorni delle feste, il commercio ha dato segnali di vitalità, pure con l'aiuto dei turisti, in particolare austriaci. I saldi ci consentiranno di continuare a garantire ai consumatori convenienza, trasparenza e fiducia. Secondo le stime nazionali, la spesa media per le famiglie sarà di 303 euro. Secondo Tollon, i saldi rappresentano un volano per il settore e un'opportunità per i clienti. Consentono ai consumatori di acquistare prodotti di qualità e durevoli a prezzi convenienti e allo stesso tempo contribuiscono a rivitalizzare e a vivacizzare i centri urbani. Si tratta inoltre di un momento molto sentito anche sotto il profilo turistico, perché favorisce l'aumento dei flussi di visitatori alla ricerca di un'esperienza d'acquisto autentica. Le 12:40 minuti in punto, diamo uno sguardo alla situazione del tempo. Abbiamo cielo da nuvoloso a coperto sul Friuli Venezia Giulia, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 5 gradi, a Udine e a Pordenone 3 gradi e mezzo, a Gorizia 4. Nell'area montana a Tolmezzo 0 gradi, a Tarvisio 1 grado sopra lo zero, a Sappada -7.5, a Fone di Sopra -2.5, sul Piancavallo -4 e in quota abbiamo sul Lussari e sullo Zoncolan 6 gradi sotto zero, a Lignano 5, a Grado 4. Oggi pomeriggio il cielo sarà nuvoloso con possibili piovigini o piogge deboli sulla costa, ma quello che ci aspetta sarà invece un fine settimana all'insegna del bel tempo e del freddo. Sentiamo il dettaglio delle previsioni con Giuseppe Visalli dell'Osmer ARPA. Sulla nostra regione continua l'afflusso di correnti fredde da nord, attualmente in quota abbiamo correnti più umide da ovest, però che determinano appunto questa copertura nuvolosa. Nel corso del fine settimana diverranno più secche, ruoteranno da nord, rimarranno comunque fredde, quindi il tempo nel fine settimana sarà stabile. Nel corso poi dell'inizio della prossima settimana avremo il ritorno di correnti più umide da sud in quota che porteranno appunto delle precipitazioni, però comunque rimarrà freddo nei bassi strati, quindi è probabile per martedì l'arrivo di qualche nevicata. Attualmente i modelli ci suggeriscono che potrebbe nevicare anche in pianura, però l'incertezza è ancora piuttosto elevata, quindi bisognerà seguire gli aggiornamenti. Per quanto riguarda però il fine settimana, avremo nel dettaglio, nella giornata di sabato, cielo poco nuvoloso in generale, con qualche nube in più verso la costa, soprattutto al mattino, poi sul tardisiano a causa di nubi basse. Soffierà buona moderata sulla costa, temperature minime tra i -3 e i 0 gradi sulla pianura, tra 2 e 4 gradi sulla costa, massime tra 8 e 10 gradi ovunque. Domenica poi tempo bello, con cielo sereno ovunque, soffierà però buona moderata sulle zone orientali e sulla costa, sostenuta a Trieste con raffiche intorno ai 60-70 km orari, temperature minime tra -2 e 2 gradi invece sulla pianura, tra 2 e 4 gradi sulla costa. Per quanto riguarda le massime, saranno in calo rispetto a sabato, con valori tra i 5 e 8 gradi. A poco più di 2 settimane dall'appuntamento con la Coppa del Mondo femminile di sci alpino, la pista di Prampero al centro dell'attenzione ieri per la fiaccolata del Lussari, un appuntamento attesissimo di questi giorni festivi con 250 sciatori e le loro torce. La magia si accende al calare del sole. Lo scenario è quello della Valcanale, col Monte Santo di Lussari che svetta al tramonto, oltre la coltre di nuvole stesa sopra Campo Rosso. Da lì sono discesi, sci ai piedi, lungo la pista di Prampero, i 250 fiaccolatori, tutti rigorosamente in costume storico, che hanno regalato al folto pubblico del Tarvisiano l'emozione dei giochi di luce per il saluto al nuovo anno. Una tradizione che si ripete ormai da 53 anni, da il 1 gennaio 1974, quando un gruppo di giovani appartenenti all'Unione Sportiva Campo Rosso decise di festeggiare il Capodanno in maniera speciale. Il serpentone si è snodato alla luce delle sole torce per oltre 4,5 km, percorrendo i circa 1000 metri di dislivello che separano la cima dell'Ussari dal fondovalle. Uno spettacolo indimenticabile per i tantissimi visitatori accorsi da tutto il nord-est, ma anche dalle vicine Austria e Slovenia. Alcuni hanno potuto godere della suggestiva esibizione anche dall'alto, a bordo della telecabina. Sul muro finale della pista, regina delle Alpi Giulie, i 250 fiaccolatori hanno acceso il grande numero luminoso che ha ufficialmente salutato l'avvio del 2026. Poi, al loro arrivo a valle, si sono tutti riuniti in cerchio all'interno del compendio parrocchiale di Campo Rosso, formulando i propri auspici per l'anno nuovo e gettando le fiaccole nel grande falò che era stato acceso poco prima, al termine della fiaccolata dei bambini partita dall'imbarco della telecabina. La festa è proseguita con musica e fuochi d'artificio a festeggiare un anno, il 2026, importante per Tarvisio e la stessa pista di Prampero, di nuovo protagoniste dopo un quindicennio di 2 gare della Coppa del Mondo di sci alpino femminile, appuntamento sabato 17 e domenica 18 gennaio. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La musica inizia oggi a Sacile la seconda edizione del premio Franco Gulli, il concorso internazionale di violino organizzato dall'Ensemble Serenissima e dedicato a uno dei più importanti violinisti italiani del Novecento. Un percorso di crescita per giovani violinisti che richiamerà, fino al concerto conclusivo previsto martedì 6, una 60ina di concorrenti da tutto il mondo. Sentiamo il presidente del premio, Mario Zanette. Il premio Gulli nasce con un obiettivo chiaro e anche ambizioso, se vogliamo, cioè offrire un'opportunità concreta ai giovani violinisti di talento, creando uno spazio di confronto, crescita e visibilità in un contesto naturalmente internazionale. Quella che parte oggi è la seconda edizione di questo concorso internazionale. La prima è stata a Roma, questa seconda verrà invece organizzata a Sacile. Quanti saranno i partecipanti e qual è la loro età e la loro provenienza? Abbiamo portato il concorso a Sacile perché ci sembrava anche giusto, visto che Franco Gulli gli ha chiesto farlo in Friuli, sarebbe stata la cosa più saggia, più bella, no? E abbiamo fatto questo sforzo, che è uno sforzo anche economico. I risultati sono stati veramente soddisfacenti, perché abbiamo 60 concorrenti che vengono da 18 paesi, a cui età va, perché abbiamo anche le categorie, va dall'età di 6 anni fino a 25, abbiamo posto noi un limite. Dove si svolgerà il concorso? Il concorso si svolge presso il salone del Palazzo Ragazzoni, poi naturalmente degli impiegati diversi, perché noi saremo anche presso l'ex prefettura di San Gregorio e utilizzeremo anche i locali dell'Accademia Musicale di Sacile. E naturalmente poi il concerto finale verrà fatto al Teatro San Canaro con l'orchestra. Cinema, Tecla Insoli e Michele Riondino sono i protagonisti di Primavera, il primo film di Damiano Micheletto uscito a Natale nelle sale. Micheletto, tra i nostri maggiori registi teatrali, sarà oggi a Trieste per presentarlo, prima al Cinema Fellini alle 17.15, poi all'Ariston alle 19.15. Il film racconta la vicenda di un'orfana del Pio Ospedale della Pietà di Venezia che impara a suonare il violino e che incontra come maestro nell'istituto Antonio Vivaldi. È liberamente tratto dal romanzo Stabat Mater di Tiziano Scarpa, premio Strega nel 2008. Damiano Micheletto è direttore creativo della cerimonia d'apertura delle prossime Olimpiadi invernali, in programma il 6 febbraio allo Stadio Meazza di Milano. Lo sport con il calcio, vigilia di campionato per l'Udinese, domani la prima gara del 2026 a Como contro una delle squadre più in forma del massimo campionato, sesta in classifica con 5 punti più dei friulani. Nel giro di una settimana i bianconeri giocheranno poi di nuovo in trasferta a Torino e in casa contro il Pisa. Un tour de force con qualche rischio per Karlström e Zaniolo, diffidati dopo aver totalizzato 4 ammonizioni in questa stagione. Tra i dubbi dell'allenatore Runiaic, quello che riguarda il portiere, Okoye è pronto al rientro dopo la squalifica, ma Padelli al suo posto ha offerto un'ottima prestazione contro la Lazio. Fra poco la conferenza stampa del tecnico, che tuttavia non è solito sbilanciarsi. Domani sul campo lariano si giocherà alle 12.30, mentre il programma della 18ª giornata si aprirà già questa sera con Cagliari-Milan. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Daniele Lettige e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Walter Vidonis e Mauro Cumin, ha collaborato in redazione Isabella Parutto. Le 12.48 vi lasciamo alla programmazione di Radio 1, alle 13.30 la seconda parte dei programmi regionali e il prossimo TG regionale oggi in onda alle 15. A tutti voi grazie per averci seguito e ancora una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.